Quando le Bronte erano giunte a Bruxelles, avevano l'intenzione di trattenervisi 6 mesi, ossia fino alle lunghe vacanze che avevano inizio in settembre, quando la scuola interrompeva l'insegnamento per 6 settimane, a volte per 2 mesi interi. Naturalmente questo era sembrato il momento più opportuno per fare ritorno a casa, ma la proposta alla quale accenna Charlotte nella lettera citata alterò i loro progetti. Decisero di accettarla. Erano felici dei progressi fatti nelle varie materie di cui così a lungo avevano bramato la conquista. Godevano inoltre della momentanea presenza in Belgio di 2 amiche, la cui compagnia era loro congeniale già da anni. Nei loro incontri occasionali potevano gustare il grande piacere, ben conosciuto da chi risiede all'estero, di scambiarsi le notizie che provenivano dalle rispettive famiglie. Ricordavano insieme il recente passato, facevano progetti per l'avvenire. Mary e sua sorella, la vivace, ridente e allegra Marta, erano pensionanti in un istituto appena fuori dalla cinta delle mura. I loro cugini risiedevano nella stessa città e accoglievano sempre gentilmente Charlotte ed Emily, anche se la loro opprimente timidezza non rivelava le alte qualità di cui erano in possesso e spesso le costringeva al silenzio. Durante i primi mesi della loro permanenza trascorrevano la vacanza di fine settimana con questa famiglia, ma Emily fin dal primo momento si mostrò restia ad ogni apertura amichevole e Charlotte era, come ebbe a spiegare Mary, troppo debole fisicamente per accogliere l'energia necessaria alla conversazione e ancor meno alla discussione, e perciò sembrava consentire con deferenza a qualsiasi opinione altrui, stranamente in contrasto con quanto le amiche conoscevano del suo talento e della sua forza di carattere. In quella casa le sorelle Bronte e le loro amiche si incontravano frequentemente. Charlotte però divenne ben presto ospite benvenuta di un'altra famiglia inglese, dove, secondo quanto motivo di pensare, si trovò più a suo agio che da Mrs. Jenkins e dai cugini di Mary. Un medico inglese con numerose figliole si era stabilito temporaneamente a Bruxelles nel luglio del 1842 per dar loro modo di perfezionarsi culturalmente. Le aveva iscritte da Madame Heger il 15 agosto, poco meno di un mese dall'inizio delle Grandes Vacances, per approfittare quanto meglio del tempo a loro disposizione e per familiarizzarsi con la lingua del luogo, queste giovanette si recarono quotidianamente durante le vacanze al pensionato di Rue d'Isabelle, dove oltre alle Bronte erano rimaste da 6 a 8 interne. La scuola era divisa in 3 classi. Nella prima vi erano da 15 a 20 alunne, nella seconda studiavano in media una sessantina di ragazze, tutte esterne, eccettuate le Bronte e un'altra educanda, nella terza si contavano da 20 a 30 alunne. La prima e la seconda classe occupavano una vasta stanza divisa orizzontalmente a metà da una paratia di legno. In ciascuna parte vi erano 4 lunghe file di banchi, con in fondo una scrivania suppedanea per l'insegnante di turno. Nell'ultima fila, nell'angolo più quieto, sedevano fianco a fianco Charlotte ed Emily, così assorte nello studio da non percepire alcun rumore o movimento all'intorno. Le ore di insegnamento andavano dalle 9 alle 12, quando nel refettorio veniva servita la seconda colazione su 2 lunghe tavole, dove le convittrici e le semi-convittrici, circa 32 ragazze, passeggiavano a pane e frutta, mentre le esterne, ossia le allieve diurne che si erano portate la merenda da casa, andavano a consumarla in giardino. Dall'una alle due vi era l'ora dedicata al ricamo, durante la quale un'alunna leggeva ad alta voce un qualche piacevole racconto. Dalle due alle 4 nuovamente lezione. Alle 4 le esterne se ne andavano, le semiconvittrici e le convittrici pranzavano in refettorio dove Monsieur e Madame Heger presiedevano. Dalle 5 alle 6 ricreazione, dalle 6 alle 7 preparazione per le lezioni del giorno seguente. Dopodiché veniva fatta ad alta voce una lecture pieuse, una lettura pia che costituiva l'incubo di Charlotte. Nelle rare occasioni in cui Monsieur Heger era presente, vi sostituiva un libro di genere diverso, più interessante. Alle 8 si prendeva una leggera refezione di acqua e pistolet, deliziosi panini di Bruxelles, immediatamente seguita dalle preghiere e poi a letto. Il dormitorio principale si trovava al primo piano, sopra la classe lunga o sala da studio. Vi erano da 6 a 8 stretti lettini addossati a ognuna delle pareti principali, ciascuno circondato da cortine bianche. Un lungo cassetto sotto ogni letto serviva da guardaroba. Tra un letto e l'altro vi era una specie di trespolo con il catino, La brocca dell'acqua e uno specchio. I letti delle sorelle Bronte si trovavano a un'estremità del dormitorio, quasi ritirati e privati, come se si fossero trovati in una stanza separata. Durante le ore della ricreazione, che sempre venivano trascorse in giardino, passeggiavano insieme quasi sempre in silenzio. Emily, benché di statura più alta, si appoggiava alla sorella. Quando le rivolgevano la parola, Charlotte rispondeva sempre e se qualcosa veniva detto a tutte e due, generalmente interloquiva lei. I suoi modi quieti e gentili non si alteravano mai. Emily apriva bocca raramente. Nessuno ricorda di aver visto Charlotte irritata, sia pure per un solo momento. Dopo che ebbe assunto l'incarico di insegnante di inglese, se l'impertinenza o l'indifferenza delle alunne era tale da irritarla, una lieve alterazione del colorito, un momentaneo accendersi dello sguardo, una più decisa energia nel tono erano gli unici segni esteriori che mostravano quanto risentisse della molestia che le infliggevano. Ma alla lunga questa sua dignitosa sopportazione domò le alunne più di quanto facessero le volubili tirate delle altre insegnanti. La mia informatrice aggiunge: l'effetto di questi suoi modi era singolare. Posso parlare per esperienza personale. A quei tempi ero impetuosa e vivacissima, non rispettavo le insegnanti francesi. Tuttavia, con mio proprio sbalordimento, a una sua semplice parola diventavo trattabilissima, tanto che M. e Madame Heger finirono per comunicarmi le loro osservazioni per tramite suo. Le altre alunne, anche se non tutte, le vollero bene anche loro. Era così quieta e silenziosa. In ogni modo, tutte la rispettavano. Eccettuando le parole che descrivono i modi di Charlotte come insegnante d'inglese, un incarico assunto da lei alcuni mesi più tardi, la descrizione della vita scolastica delle due Bronte va riportata all'inizio del nuovo anno scolastico, nell'ottobre del 1842, e quanto ne ho trascritto comunica le prime impressioni sulla vita in una scuola straniera e la situazione delle due sorelle in quell'ambiente, raccontate da un'intelligente ragazza inglese di 16 anni. La prima interferenza in questo quadro di ben regolati impegni e fisse occupazioni si presentò tristemente. Marta, la graziosa, birichina, vincente e scherzosa Marta, si ammalò improvvisamente al Château de Kögelberg. Fu assistita con amore e devozione dalla sorella Mary, ma tutto fu inutile. Dopo pochi giorni sopraggiunse la morte. Ecco come Charlotte riferisce brevemente il fatto. Seppi della malattia di Martha T. solamente il giorno prima della sua morte. Mi recai a Kögelberg la mattina seguente, senza immaginare che la versava in grave pericolo, e mi fu detto che tutto era finito. Era morta durante la notte. Mary era stata condotta a Bruxelles, da allora l'ho vista frequentemente. Non è distrutta da quanto è avvenuto, ma durante la malattia di Marta è stata per lei più che madre, instancabilmente. Ora si mostra calma e seria, nessuno sfogo di violenta commozione, nessuna esagerazione nel dolore. Ho visitato la tomba di Marta, il posto dove i suoi resti giacciono in terra straniera. Chi fra quanti hanno letto Shirley non ricorda le poche righe, non più di mezza pagina, pregne di triste rimembranza? Egli non immagina che la piccola Jessie debba morire in giovane età, è così gaia e chiacchierina, sbarazzina, originale perfino, pronta a insorgere se provocata, ma così affettuosa quando la si accarezza, di volta in volta mite, è pungente, esigente, tuttavia generosa, impavida, eppure pronta ad appoggiarsi a chi la vuole aiutare. Jessie, col suo visino piccante, col suo attraente chiacchiericcio, coi suoi modi avvincenti, è fatta per essere prediletta. Conoscete questo luogo? No, non l'avete mai visto prima, ma vi è familiare l'essenza di questi alberi, il loro fogliame, sono cipressi, salici, tassi. Croci di pietra simili a queste non ci sono estranee. Né lo sono queste opache ghirlande di fiori perenni. Qui è il posto. Zolle verdi e una lapide di marmo grigio. Lì sotto dorme Jessie. Ha vissuto il tempo di una giornata d'aprile. Ella fu molto amata e amò molto. Spesso durante la sua breve vita versò lacrime, patì frequenti dolori, sorrise negli intervalli, rallegrando tutto quanto le stava intorno. La sua morte fu serena e felice. Fra le braccia protettrici di Rose, che l'aveva sostenuta e difesa nelle molte prove attraversate. Le fanciulle, La morente e l'altra che l'assisteva in quell'ora erano sole in un paese straniero e nel suolo di quel paese fu scavata la tomba di Jessie. Ma Jessie, non scriverò altro su di te. Questa è una sera d'autunno, umida e desolata. Una sola nuvola è tesa nel cielo, ma lo ricopre interamente. Il vento non ha sosta, corre singhiozzando al di sopra della collina dal profilo monotono, privo di colore nel crepuscolo e nella nebbia. La pioggia ha sferzato tutta la giornata quel campanile. Haworth si alza oscuro dalla cinta di pietra del suo cimitero. L'erba lunga, le ortiche, le tombe gocciolano e trasudano l'umidità. Questa sera me ne rammenta con pungente evidenza un'altra di alcuni anni fa. Anche quella apparteneva a un autunno urlante e piovoso, e alcune persone che quel giorno si erano recate in pellegrinaggio presso una tomba in un cimitero eretico, ora sedevano accanto a un fuoco di legna acceso nel caminetto di una dimora straniera. Erano sereni e cordiali, ma ben sapevano che nella loro cerchia si era prodotto un vuoto impossibile da colmare. Sapevano di aver perduto qualcuno la cui assenza, per quanto a lungo vivessero, non avrebbe potuto essere compensata. La pesante pioggia cadeva inzuppando le zolle che ricoprivano la carissima creatura perduta, sul cui capo sepolto la cupa bufera cantava un lamento funebre. La fiammata li riscaldava, ma Jessie giaceva fredda, solitaria, chiusa nella bara, mentre la vita, l'amicizia, erano per loro una benedizione. Solamente le zolle riparavano lei dal temporale. Quella di Martha era la prima morte che aveva colpito un membro della piccola cerchia intima di Charlotte dopo quella delle sorelline tanti anni addietro. Era ancora tutta presa dalla sentita partecipazione alla pena di Mary quando da Haworth giunse la notizia che la zia Branwell era seriamente ammalata. Emily e Charlotte presero immediatamente la risoluzione di tornare a casa e prepararono in tutta fretta i bagagli, senza sapere se sarebbero tornate a Bruxelles dopo aver interrotto l'impegno preso con Monsieur e Madame Heger e il loro rapporto col pensionato. Si sentivano sradicate, incerte circa qualsiasi progetto futuro. La mattina seguente, mentre erano in procinto di lasciare la casa di Rue d'Isabelle, ricevettero una seconda lettera che annunciava la morte della zia. Visto che ogni cosa era già stata combinata per agire con la maggior fretta possibile, non ebbero bisogno di cambiare nulla nei loro piani. Si imbarcarono ad Anversa, viaggiarono notte e giorno e giunsero a casa un martedì mattina. Il funerale era ormai un fatto compiuto e Mr. Bronte e Anne sedevano insieme chiusi in muto dolore per la perdita di una persona che per quasi 20 anni aveva fatto parte della loro cerchia familiare e si era meritata la considerazione e il rispetto anche di chi non immaginava quanto ne avrebbe sentita la mancanza dopo averla perduta. Il piccolo capitale accumulato a costo di grande frugalità e di silenziose privazioni lo lasciava alle nipoti. In un primo tempo Bronwell, il suo prediletto, era destinato a goderne una parte, ma ultimamente le sue spese sconsiderate avevano amareggiato la buona signora che aveva cancellato il nome del nipote dal testamento. Quando lo smarrimento dei primi giorni fu passato, le tre sorelle gustarono l'intima gioia di trovarsi riunite dopo la più lunga separazione che avessero mai vissuta. Avevano molto da dirsi sui mesi passati, molto da discutere per il futuro. Anna aveva ultimamente occupato un nuovo posto di governante che doveva riprendere alla fine delle vacanze natalizie. Per un altro anno o giù di lì dovevano essere pronte tutte e tre a separarsi nuovamente, ma poi vi era la felice prospettiva di una vita definitivamente in comune con l'apertura della tanto vagheggiata scuola. Naturalmente non pensavano più di organizzarla lontano dal padre. Il modesto capitale indipendente che ormai ciascuna di loro possedeva avrebbe permesso di effettuare nella canonica di Haworth le modifiche che l'avrebbero messa in condizione di ospitarvi un piccolo numero di alunne. Poiché per l'immediato futuro Anne era impegnata, Emily decise che a casa sarebbe rimasta lei. Circa la sistemazione di Charlotte, deliberarono molto e discussero alquanto. Nonostante l'affrettata partenza da Bruxelles, Monsieur Heger aveva trovato il tempo di scrivere una lunga lettera di condoglianze a Mr. Bronte. In essa si legge un cortesissimo apprezzamento sul carattere delle figlie, inteso come rispettoso tributo al padre che le aveva educate, e inoltre un'interessante proposta riguardo a Charlotte, alla quale offriva, a nome della moglie e suo, di tornare nel loro istituto alla pari ancora per un anno, per poi, se lo avesse voluto, esservi assunta in pianta stabile come insegnante, con uno stipendio che le avrebbe garantito l'indipendenza finanziaria. Vi era tanta verità unita a grande gentilezza nelle considerazioni minuziosamente esposte di quelle righe. Era così ovvio che un secondo anno di studio avrebbe altamente valorizzato i risultati ottenuti nel primo, che si giunse presto alla decisione che Charlotte sarebbe ritornata a Bruxelles. Nel frattempo si godette in modo indicibile quelle vacanze natalizie che li videro tutti riuniti. Anche Bronwell era con loro. La sua presenza dava ancora piacere, quali che fossero le sue pecche, fosse anche i suoi vizi, le sorelle vedevano sempre in lui la speranza della famiglia, un futuro motivo di orgoglio. Rifiutavano di inquadrare nella giusta luce certi fatti di cui ogni tanto giungeva loro l'eco, pensando che dipendessero dal comportamento di un uomo di forte tempra. E fino a che la triste esperienza non fece loro cambiare opinione, caddero nel frequente errore di identificare le forti passioni con un forte carattere. L'amica di Charlotte venne a trovarla e lei contraccambiò la visita. La permanenza a Bruxelles dovette sembrarle imprecisa, come un velo di sogno, ripresa com'era dalla vita di sempre, dalle antiche abitudini della sua casa, godendo di una indipendenza maggiore di quanta ne avesse avuta quando era viva la zia. Benché fosse inverno, le sorelle fecero le loro solite passeggiate in brughiera. In quella stagione, coperta di neve, e scesero spesso la strada che conduce a Chifley per cercare nella biblioteca circolante i libri nuovi che vi erano giunti durante la loro assenza dall'Inghilterra. Capitolo 12. Verso la fine di gennaio, Charlotte ripartì per Bruxelles. Il viaggio intrapreso da sola fu un susseguirsi di contrattempi. Il treno da Leeds a Londra, che sarebbe dovuto essere alla stazione di Euston Square nelle prime ore del pomeriggio, accumulò ritardo e non vi giunse prima delle 22. Aveva pensato di pernottare, come la prima volta, al Chapter Coffee House, che si trova a poca distanza dall'ancoraggio delle navi a vapore, ma sembra che non osasse presentarvisi a un'ora che, secondo la mentalità dello Yorkshire, era tarda e indecorosa. Così, prendendo una vettura di piazza, andò direttamente al molo di London Bridge e chiese a un addetto ai lavori di condurla in barca a remi al traghetto per Ostenda, in partenza la mattina seguente. Anni dopo mi descrisse, su per giù, come lo leggiamo in Villette, la sensazione di solitudine totale, di eccitazione, non priva di uno strano piacere, mentre nel cuore di una notte d'inverno era trasportata a rapidi colpi di remo attraverso il fiume, quasi immobile, fino al fianco dello scafo nero in attesa. A tutta prima le fu negato con tono brusco il permesso di salire a bordo. Nessun passeggero poteva dormire a bordo, le dissero ruvidamente. Lei, in piedi nella barca che rullava piano piano, guardava verso le luci di Londra, quel poderoso cuore di cui le giungeva da lontano il brusio soffocato. Chiese di parlare con qualche autorità a bordo. L'autorità si fece avanti e lei espose con calma e semplicità la situazione in cui si trovava. Ripeté la richiesta, vincendo l'indifferenza e la diffidenza di chi l'ascoltava e producendo un'impressione così favorevole che ottenne il permesso di salire a bordo e di occuparvi una cuccetta. La mattina seguente il traghetto salpò, avendo lasciato Haworth il venerdì di prima mattina, giunse alle 19 di domenica in Rue d'Isabelle per la seconda volta. Il suo stipendio fu di 61 sterline annue, dalle quali doveva detrarre 10 franchi al mese per pagare le lezioni di tedesco che, essendo pagate un tanto all'ora, equivalevano a quanto avevano pagato insieme lei ed Emily l'anno precedente. Miss Bronte espresse il desiderio di impartire le lezioni di inglese alla classe che le era affidata, senza il controllo di Monsieur o di Madame Heger, che avevano offerto di essere presenti per mantenere in riga le indisciplinate studentesse belghe. Preferiva imporsi da sola con la dignità del proprio comportamento, senza che fosse necessaria la presenza di un gendarme. Aveva la responsabilità di una nuova sala di studio, costruita in uno spazio dell'area di ricreazione adiacente alla casa. Di questa classe era incaricata a tempo pieno e per disposizione di Monsieur Heger venne chiamata Mademoiselle Charlotte. Intanto continuava i suoi studi, dedicandosi principalmente al tedesco e alla letteratura. Di domenica andava da sola alle cappelle protestanti, tedesca e inglese. Anche le sue passeggiate erano solitarie, fatte principalmente nell'antico viale proibito dove era al sicuro da qualsiasi intrusione. Questa solitudine costituiva un lusso pericoloso per una giovane predisposta a improvvise acute crisi di morboso smarrimento. Il 6 marzo 1843 scrive quanto segue. Naturalmente sono ormai sistemata. Non sono troppo sovraccarica di occupazioni, insegno inglese e per conto mio trovo il tempo di fare progressi in tedesco. Dovrei considerare la mia posizione favorevole ed essere grata per la buona sorte che mi è toccata. Ah, se potessi tenermi sempre su di morale, non sentirmi mai sola, senza desiderare sempre una compagna, un'amica o qualsiasi altro rapporto che si possa chiamare così, starei veramente bene. Come ti ho già detto prima, Monsieur e Madame Heger sono le due sole persone in questa casa per le quali io provi vera considerazione e stima. Naturalmente non posso essere sempre in loro compagnia, anzi, nemmeno posso esserlo frequentemente. Al mio ritorno mi hanno detto che dovevo considerare come mio il loro salotto e di andarvi ogni volta che non fossi impegnata in classe, ma non posso farlo. Di giorno è a disposizione del pubblico, i professori di musica e gli insegnanti lo attraversano ogni momento, chiunque vi entra e ne esce a volontà e di sera non voglio, non devo far da intrusa nella cerchia intima di Monsieur e Madame e dei loro figlioli. Così, tranne che nelle ore di scuola, per lo più me ne sto da sola, ma non importa, do regolarmente lezioni di inglese a Monsieur Heger e a suo cognato, progrediscono con straordinaria rapidità, specialmente il primo. Incomincia già a parlare inglese in modo accettabile. Se tu potessi vedere e udire lo sforzo che mi tocca fare per insegnare loro correttamente la nostra pronuncia e i loro vani tentativi di per imitare la mia intonazione, avresti di che ridere per tutta l'eternità. È passato il carnevale ed eccoci immerse nella cupa atmosfera e nella severa astinenza della Quaresima. Il primo giorno di Quaresima abbiamo bevuto il caffè senza latte alla prima colazione, aceto e verdura con pochissimo pesce salato a pranzo, pane asciutto per cena. Il carnevale è stato tutto una maschera e un teatro. Monsieur Heger ha accompagnato me e una delle nostre alunne a vedere le maschere. Era allegro il vedere l'immensa folla e la generale allegria. Ma le maschere non valevano nulla. Sono stata due volte dai D, quei cugini di Mary di cui ti ho già parlato altre volte. Quando partiranno non avrò più nessuno a cui far visita. Ho ricevuto due lettere da Mary. Non mi dice di essere ammalata, non si lagna, ma le sue parole non sono certamente di una persona che stia godendo di una grande letizia. Non ha vicino nessuna che sia buona con lei, come Monsieur Heger lo è per me. Nessuno che le presti i libri, nessuna che stabilisca un dialogo ogni tanto. Addio, quando scrivo questa parola, mi sembra difficile che tu mi possa sentire. Tutte le onde della manica che si gonfiano e ruggiscono debbono soffocarne il suono. Dal tono di questa lettera si capisce facilmente che la Bruxelles del 1843 era per lei assai diversa da quella del 1842. Allora aveva Emily come costante compagna in cui trovare sollievo, godeva la distrazione settimanale delle visite alla famiglia D, gustava la gioia di incontrare frequentemente Mary e Martha. Ora Emily era lontana, a Haworth, dove, come Charlotte ne aveva fatto esperienza nel caso della zia, lei o qualsiasi altra persona cara avrebbe potuto morire senza che fosse possibile raggiungerla in tempo, pur con la massima celerità. I D erano sul punto di lasciare Bruxelles, perciò da lì a poco le sarebbe toccato di passare anche il giorno di libertà settimanale a Rue d'Isabelle, o perlomeno così pensava. Mary se n'era andata, seguendo il corso indipendente del suo destino. Rimaneva solamente Martha, immobile e tranquilla per sempre, nel cimitero oltre la porta di Louvain. Inoltre, la temperatura, durante le prime settimane del secondo soggiorno di Charlotte a Bruxelles, era stata fredda e pungente, e la debole costituzione di lei risentiva penosamente la stagione inclemente. Aveva sempre saputo sormontare il dolore fisico, per acuto che fosse, ma troppo spesso la cattiva salute influiva sul morale e allora la depressione nervosa raggiungeva livelli veramente pietosi. Sapeva che ciò dipendeva dalla sua costituzione, era capace di ragionarne, ma nessun ragionamento le impediva di soffrire una vera agonia mentale finché la negativa situazione fisica perdurava. Gli Heger scoprirono solamente dopo la pubblicazione di Villette che all'inizio della sua carriera di insegnante la condotta delle alunne della loro scuola era stata ribelle e insolente al più alto grado. Erano rimasti all'oscuro del fatto, visto che Miss Bronte non aveva accettato la loro offerta d'aiuto per garantire la disciplina in classe e non si era mai lamentata di alcuna difficoltà. Tuttavia, deve essere stato deprimente per lei in quei giorni il non riuscire ad imporre la sua autorità alle allegre, sane, ottuse scolare. Alla fine, per diretta testimonianza di queste, la paziente e risoluta fermezza dell'insegnante ottenne una giusta ricompensa, ma per una persona di salute così debole e di spirito così suscettibile, quanto debbono essere stati penosi gli scontri sostenuti con le alunne. Scrive all'amica E. C'è qualche probabilità di una tua venuta a Bruxelles? Durante l'amaro clima invernale che abbiamo sofferto per tutto febbraio e per buona parte di marzo, non ho rimpianto la tua assenza. Oh, se ti avessi vista rabbrividire come rabbrividivo io, se gli occhi mi fossero caduti sulle tue mani e sui tuoi piedi rossi e gonfi come lo erano i miei, lo sconforto che provavo sarebbe stato raddoppiato. Sopporto benissimo questi inconvenienti che non mi irritano, benché mi intorpidiscano e mi lasciano senza parole, ma se tu dovessi passare un inverno in Belgio ti ammaleresti. Ora il tempo si è fatto migliore e ti vorrei qui, ma non ho insistito e non insisterò per indurti a venire. Vi sono privazioni e umiliazioni alle quali mi devo sottomettere. La vita è monotona e uniforme. Si prova costantemente un senso di isolamento in mezzo alla folla. Il protestante e lo straniero, sia insegnante che studente, è condannato alla solitudine. Non scrivo questo per lamentarmene, anche se riconosco gli svantaggi della mia attuale posizione. Quale condizione ne è priva? E ogni volta che mi volgo indietro e confronto quella che sono con quella che ero, la mia posizione qui con quella in cui mi sono trovata da Mrs., per esempio, ringrazio il cielo. Nella tua ultima lettera leggo un'osservazione che a tutta prima mi ha infuriata, lì per lì ho pensato che avrei fatto meglio a lasciarla cadere, rispondervi sarebbe stata pazzia. Poi mi sono decisa a raccoglierla per mettere il tutto a tacere per sempre. Tre o quattro persone, a quanto pare, pensano che il futuro époux di Mademoiselle Bronte viva sul continente. Queste persone ne sanno più di me. Non possono credere che io abbia attraversato il mare per essere semplicemente un'insegnante nel pensionato di Madame Heger. Dovrei avere un qualche motivo più forte del rispetto per i miei datori di lavoro, della gratitudine per la loro gentilezza, eccetera, per essere indotta a rifiutare uno stipendio di 50 sterline in Inghilterra e accettarne uno di 16 in Belgio. Devo senza alcun dubbio avere una qualche remota speranza di agganciare un marito, chissà dove e chissà come. Ah! Se queste benevole persone conoscessero la vita reclusa che conduco qui, se sapessero che l'unico uomo con cui scambio qualche rara parola è Monsieur Heger, forse si degnerebbero di allontanare il sospetto che un così chimerico piano, privo di un qualsiasi fondamento, influenzi il mio modo di procedere. Ah, ho detto abbastanza per liberarmi dalla stolta accusa. Non è certamente un delitto sposarsi, né un delitto desiderare le nozze, ma ritengo sia pura imbecillità da parte delle donne prive di bellezza e di denaro mettere il matrimonio in vetta ai loro desideri, alimentarne la speranza e farne lo scopo di ogni agire. Meglio convincersi per tempo di non essere attraenti, starsene quiete e pensare ad altro che al legame matrimoniale. Le righe che seguono sono prese da una delle poche lettere rimaste della sua corrispondenza con la sorella Emily. 29 maggio 1843. Qui vado avanti giorno dopo giorno, in un certo modo sola, alla Robinson Crusoe, ma non importa. Da altri punti di vista non vi è nulla di concreto di cui mi debba lagnare. Quanto detto non ne offre motivo. Spero che tu stia bene. Vai spesso a passeggiare in brughiera. Tante cose affettuose a Tabby, spero che continui in buona salute. Circa la stessa data, scrive al padre. 2 giugno 1843. Sono stata felice di ricevere notizie da casa. Non ricevendone, incominciavo a sentirmi depressa e a nutrire un impreciso timore che qualcosa non andasse bene. Non parlate della vostra salute. Spero che stiate bene, così pure Emily. Temo che si affatichi troppo ora che Anna, una giovane domestica che aveva aiutato Tabby per un certo tempo, è andata via. Sono veramente felice di sentire che Tabby rimane con noi. Ella era ormai bene avanti nei 70. È un gesto di grande carità da parte vostra e penso che non rimarrà senza ricompensa perché ella è molto fedele e sempre ci servirà in ogni occasione quanto meglio potrà. Inoltre è una compagnia per Emily, che senza di lei sarebbe molto, molto sola.